Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, si chiama Condor ed è il nuovo progetto europeo guidato dall'Università di Bologna che tenterà di dar vita a un dispositivo di fotosintesi artificiale. La fotosintesi artificiale, ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione, consiste in buona sostanza nella produzione di combustibili o anche di altri composti organici ad alto valore energetico a partire da anidride carbonica e acqua che vengono fatti reagire grazie alla luce del sole, esattamente come accade nella fotosintesi clorofilliana, quella delle piante, dove acqua e CO2 vengono trasformate in quel caso in zuccheri. L'idea della fotosintesi artificiale è stata proposta per la prima volta circa un secolo fa da Giacomo Chamichan, che proprio a Bologna insegnò, e oggi è un traguardo inseguito da laboratori di tutto il mondo, dato che, insomma, come si può facilmente intuire, la possibilità di produrre dei combustibili a partire dalla CO2 darebbe un grande contributo alla causa della lotta contro il cambiamento climatico. Allora, di questo progetto Condor parliamo con Paola Ceroni, che è professoressa di chimica dell'Università di Bologna e che guida il progetto Condor, appunto. Buonasera Ceroni, benvenuta. Buonasera. Ecco, allora Ceroni, per cominciare le chiedo di farci una brevissima fotografia della ricerca sulla fotosintesi artificiale, che è una ricerca appunto che si sta svolgendo in tutto il mondo. Esatto, la ricerca è organizzata un po' in tutto il mondo e in maniera diversa. In Europa sono vari centri dedicati proprio alla fotosintesi artificiale. In America ugualmente ci sono centri dedicati alla fotosintesi artificiale che raggruppano diverse università. A livello italiano non esiste un centro per la fotosintesi artificiale, se non un raggruppamento di tre dipartimenti, Bologna, Messina e Ferrara, che studiano da tempo questo processo. Il problema però è molto complicato, per cui non si è arrivati ancora a una soluzione che sia disponibile in commercio. E questo, diciamo, il primo processo complicato è il fatto che l'acqua e l'anidride carbonica non assorbono la luce del sole. Certo. E quindi c'è bisogno di vari componenti da mettere dentro. Prima di tutto chi deve assorbire la luce del sole e poi interagire con l'acqua e l'anidride carbonica. E infatti non a caso, insomma, in tanti laboratori ci sono prototipi, ma questi prototipi soffrono bene o male tutti di qualche problema. Qualcuno è poco efficiente, qualcuno costa troppo, qualcuno si avvelena rapidamente quando lo si prova a utilizzare e poi smette di funzionare. Allora, veniamo al vostro progetto, al progetto Condor. Voi, e questo è un dato caratteristico della vostra ricerca, avete pensato a un processo in due fasi. Sì, abbiamo deciso di semplificare, come dire, un po' il problema, dividendolo in due parti, divide in due timpera. Fasi successive, esatto. La prima parte è, diciamo, il core del problema è dovuta al fatto che prendiamo la luce del sole e da una parte riduciamo l'anidride carbonica e l'acqua a produrre idrogeno e monossido di carbonio e dall'altra parte, sempre nel primo compartimento, abbiamo il processo di ossidazione. Quindi il primo pezzo è: prendo la luce del sole, viene assorbita e convertita. Scompongo l'acqua e l'anidride carbonica in idrogeno e monossido di carbonio. Diciamo che acqua e anidride carbonica sono gli ingredienti principali e voi, per così dire, smontate queste molecole nel primo passaggio, se così si può dire. Esatto. Dopodiché prendiamo queste molecole smontate, idrogeno e monossido di carbonio, e nel secondo compartimento, di nuovo grazie alla luce del sole, li convertiamo in combustibili, ad esempio metanolo e dimetiletere. Questi sono poi combustibili che possiamo utilizzare, vengono cosiddetti anche combustibili solari, proprio perché li abbiamo fatti con la luce del sole e acqua e anidride carbonica. E quindi, dividendo il problema in due fasi, si semplifica e posso ottimizzare separatamente i due processi anche fin dall'inizio del progetto. Solo nella fase finale verranno poi combinati e sviluppati in un prototipo unico. Ecco, questo della suddivisione, diciamo, in due sottoparti del problema è uno degli aspetti innovativi del vostro approccio. Quali sono gli altri aspetti più innovativi, appunto? Le parti innovative, diciamo, hanno a che fare con i materiali che utilizziamo, perché, diciamo, il processo è complicato e spesso quello che finora si è utilizzato sono materiali costosi o rari. Certo. E invece noi vogliamo cercare di utilizzare materiali abbondanti, sia per catturare la luce del sole, sia per catalizzare, quindi facilitare queste reazioni che dobbiamo portare avanti. E ad esempio uno step innovativo è nel secondo cosiddetto compartimento, utilizziamo nanoparticelle di silicio, che è un materiale appunto a basso costo, estremamente abbondante. Esatto, è il secondo materiale più abbondante sulla crosta terrestre. Ovviamente lo dobbiamo fare nanostrutturato, quindi di dimensioni nanometriche, perché abbia le proprietà adatte ad assorbire la luce e a catalizzare questa reazione di conversione in combustibili. Senta, ma io c'è un'immagine bellissima che ho visto, un'immagine di quelle lì al microscopio, che sembra un letto di petali di rosa. Questo è uno dei vostri ingredienti segreti. Esatto, è uno degli ingredienti segreti che ha il compito di assorbire la luce del sole. E diciamo, questi petali di rosa non hanno tanto la funzione estetica, che è visibile solo un microscopio ad alto ingrandimento, quanto il fatto che proprio grazie alla struttura così fatta riescono meglio ad assorbire la luce del sole, quindi aumenta l'efficienza del primo step, che è assorbire la luce del sole per poi generare i prodotti chimici desiderati. Un altro aspetto innovativo che vogliamo sviluppare durante questo progetto è di utilizzare dei prodotti di scarto, delle biomasse, per ottenere, sempre con reazioni promosse dalla luce del sole, prodotti di più alto valore aggiunto. Questo è mirato anche a semplificare il problema, nel senso che ci aspettiamo di avere un'efficienza più elevata del processo complessivo attivato dalla luce del sole, utilizzando questi prodotti di scarto delle biomasse, oltre ovviamente ad avere un valore aggiunto dei prodotti che otteniamo al posto dell'ossigeno che normalmente viene prodotto. Grazie, allora Paola Ceroni, fateci sapere come va a finire. Senz'altro, grazie a lei. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Un saluto e a presto.